Si fa, si parte subito a diritto? Vai, vai, anche se è freddo. Vai, 1, 2, 3. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, direttamente dalla Galleria San Lorenzo in via Isidoro, nel centro di Montevarchi. Fumino, stasera abbiamo un ospite speciale, un tifoso montevarchino all'estero che casualmente più o meno è tornato in città in questi giorni ed è venuto a trovarci. Esattamente così, Julian, l'ospite di stasera viene addirittura dalla Spagna, così come il regista di stasera che se lo è portato in macchina con sé. E stasera abbiamo l'onore di essere diretti da Pedro Almodóvar, che appunto insomma è uno dei più grandi registi spagnoli viventi, quantomeno. E l'ospite di stasera, sì, è un ospite con un grande passato all'interno del tessuto sociale di Montevarchi, sia dentro lo stadio, dentro il Berliferi, dentro la sua curva, ma anche un po' al di fuori. Adesso un po' ne parleremo. E benvenuto a Giovanni Bucci. Ciao a tutti. Bene Giovanni, la prima domanda te la faccio io. Com'è vivere la passione per l'Aquila e per Montevarchi a distanza di svariate migliaia di chilometri? Com'è? Accontentarsi di sapere i risultati via internet, seguire algún filmato via internet e poco più, perché... E poi lì sono solo io, quindi non è che posso condividere la mia passione per Montevarchi con qualcuno. Sì, italiani ci sono, però di altre parti d'Italia. Però insomma è importante dire, Giovanni tutte le volte torna per una ragione o per un'altra, comunque sempre va alla partita a rivedere i suoi amati colori rosso-blu. Infatti ieri, perché registriamo ed è lunedì, Giovanni era in trasferta a vedere il Montevarchi. Sono 10 anni e sei andato via da Montevarchi. Esattamente dove sei per i nostri ascoltatori? E in questo momento vivo in provincia d'Almeria, San José, che è dentro un parco naturale di Capo de Gata, e lì so, ormai da 10 anni. 10 anni sembrano pochi e sembrano tanti, e quelli sono punti di vista. Quanti sono 10 anni secondo te, Giovanni? Dopo 10 anni, se ti guardi indietro, come era Montevarchi quando te ne andasti e come la trovi oggi, che è sostanzialmente molto cambiata anche per noi che ci viviamo? Ma 10 anni fa, quando c'ero io, secondo me c'era più allegria. Sì, Montevarchi strutturalmente è cambiata un po', non tantissimo, però c'era molta più allegria. E ora, è com'è. E appunto, quando tu abitavi a Montevarchi, per un bel po' di anni hai gestito un bar che era centralissimo a Montevarchi e è stato anche per svariato tempo un bar di riferimento per una certa parte dei certi gruppi di tifoseria organizzata proprio dell'Aquila, del Montevarchi. Come ricordi quei tempi in cui si organizzavano i pullman, magari la gente veniva a segnarsi per la trasferta, entrava uno che non vedevi normalmente al tuo bar e dicevi quello lì viene a segnarsi per la trasferta, ed era così? Sì, nel periodo che era il vecchio bar Unione, giusto sotto il comune, io ce l'avevo negli anni 94-95, sì è vero, si organizzava pullman. Se non mi sbaglio erano gli anni che si vinse lo spareggio a Lugo di Romagna, e a parte organizzare pullman, sì, era un punto di ritrovo. La domenica quando si giocava in casa, se si giocava alle 2:30 all'1 ci si trovava, non tutti, però una parte ci si trovava lì, e si andava tutti insieme allo stadio. Sì, era in un certo senso un punto di riferimento, non come è stato e ancora il bar di Giglio, niente a che vedere, però per una certa parte dei tifosi sì, era diventato un punto di riferimento. Sì, io infatti mi ricordo che ai tempi, proprio gli anni che tu hai citato, il Bargiglio è comunque sempre stato il Bargiglio per i Montevarchi e per i montevarchini, ma anche nei bar del centro storico di via Roma, a differenza di quello che si vede adesso, comunque c'era fermento e c'era tanta partecipazione da parte dei ragazzi, e all'epoca ero un ragazzo anche io ed ero uno di quelli che era nei bar del centro ad organizzare a volte anche i pullman. Sì, perché noi ci proponiamo di indagare quella che definiamo la montevarchinità attraverso le sorti dell'Aquila, o comunque i racconti che sono legati alla squadra cittadina, e per noi è esemplificativa, no, della montevarchinità e quindi dell'essere montevarchini. A questo proposito, appunto, te dicevi prima che hai visto una Montevarchi meno allegra? In che termini, in che senso? Magari sono i tempi che cambiano, magari invece sono altre dinamiche che sono subentrate. Secondo me sono un po' i tempi che cambiano e un po' anche le abitudini della gente. Prima la sera già, prima ancora molto di più, però già quando c'avevi barreria ancora la gente veniva in centro, ci si trovava a bar, si passava lì le serate senza avere bisogno di niente. E ora invece magari tu vai in centro, vai via Roma, soprattutto la sera è morta. Magari la gente o sta più in casa o si trova in altri punti della città. Io credo se tu vai in bar di Giglio la sera ancora un po' di vita ci sarà, però per esempio in centro i bar che c'avevo io credo addirittura erano chiusi dall'8 la sera e non si stava aperti fino all'1 la notte. Ma infatti una cosa interessante anche dal punto di vista del rapporto tra bar e tifosi è che rispetto a evidentemente 10 anni fa, anche diciamo 15, il centro da questo punto di vista si è totalmente svuotato anche di questa funzione, nel senso che comunque i tifosi sì, si continuano a trovare a Bar di Giglio, ma in pochi altri luoghi, mentre da quello che io sono tornato di casa a Montevarchi più tardi in realtà, però da quello che sento raccontare, un tempo il centro era anche centro nevralgico di discussioni rispetto alla squadra e anche poi, come ci ha appena raccontato, di organizzazione anche a livello di tifo organizzato sia per le partite in casa che per le partite in trasferta. Invece, altra domanda, in questi 10 anni che te ne sei andato, come hai visto periodicamente, tornando comunque seguendo la Pizzi e Bocconi, i cambiamenti della squadra e del Montevarchi? Perché sono stati 10 anni piuttosto decisivi, insomma si è rivoluzionato un po' tutto, no? Ma come la vedo ora negli ultimi anni? Bene, si è vinto 3 campionati di fila, anche se sono campionati minori, però vincere un campionato non è mai facile. Tornando al discorso di prima, sì, in centro c'era non solo il mio bar, c'era tanti bar, c'era l'Anselmi, c'era il Lucatelli dove c'era sempre tifosi, magari da me c'era la parte dei tifosi più giovani e in quegli altri bar c'erano quelli più, diciamo, più grandi. E come ho visto la squadra? E sinceramente io l'ho vista, cioè io torno poco, però ieri male, però dai, vediamo se piano piano si torna agli antichi splendori. Quello che si è percepito noi, soprattutto negli ultimi anni, è stato questo ritorno, soprattutto recente, di tifosi rispetto al disinnamoramento che era inevitabile, no? Negli anni in cui comunque c'erano nani e ballerine a governare, diciamo. Dei nani e delle ballerine. E nella tua parte di vita che stai vivendo adesso, che è quella un po' di pendolare, di tifoso fuori sede, vivendo in Andalusia e a San José di Almeria, anche se l'Andalusia non è chiaramente da equiparare alla Toscana, però noti un certo fermento che magari a Montevarchi c'era anni fa, oppure le cose in questi 10 anni anche lì sono andate cambiando? Sì, anche lì sono andate cambiando, però sai, lì è completamente differente, lì è un posto super turistico, quindi la gente viene in vacanza anche d'inverno, quindi la gente giustamente in vacanza esce di più, c'è più vita nei bar, poi gli spagnoli, se c'è da far festa, sono peggio di noi, parecchia gente c'ha la possibilità anche, se sembra di no, però è una zona abbastanza dove la gente sta bene, c'è i soldi, anche se li tengano nascosti, ma ci sono, e quindi c'è anche tanta gente che si può permettere di vivere senza lavorare, perché magari hanno terreni, c'è l'agricoltura, i padroni non lavorano, cioè nel senso i principali non lavorano, lavora solo, diciamo, la manovalanza, e sì, c'è più allegria, la gente esce di più, anche se San José non c'è niente, cioè nel senso non ci sono né discoteche, c'è solo semplici bar o semplici ristoranti, però la gente esce anche la sera di più, aiutata anche dal clima, lì non c'è questo freddo tremendo, quello tremendo, per me è tremendo, non ci sono più abituato. Sì, la gente esce di più, c'è più allegria, e uscire è anche più economico, tu vai a un bar e tu bevi una birra, costa 2 euro, con 10 euro se lo vuoi, tu sei bello a posto, sei contento, ti danno anche da mangiare perché lì è tipico la tapas, con la birra ti danno qualcosa da mangiare, quindi uno con 10 euro mangia e non ti dico ubriaco, però è contento, sì, dalla gente esci di più. c'è più fermento. E per ritornare all'indagine della Montevarchinità, una domanda che viene fatta più o meno a tutti i nostri ospiti è questa: come nasce la tua passione per i colori rosso-blu? Riesci a ricordarti proprio il momento in cui hai pensato: cavolo, che bello, quanto mi diverto, continuo a fare questa cosa? Si sta qui tutta la notte. Volentieri. Guarda, ricordo io che magari ho iniziato anche prima, è stato lo spareggio di Pistoia contro la Carrarese, che c'avevo, se non mi sbaglio, io 7-8 anni, ero insieme a mio papà. Quello è il primo ricordo. E poi dai primi anni 80 che io ho cominciato, diciamo, a frequentare la curva, dalla finale Coppa Italia di Chioggia ai vari spareggi, se non mi sbaglio a Civitavecchia, no, a Terni contro il Civitavecchia si perse clamorosamente 4-0, oppure lo spareggio di Empoli. I ricordi che io ho iniziato a salire gli scalini della curva sud più o meno a 10-11 anni, poi lasciano 46, fai conto te. A parte il fatto che la vita ti ha portato lontano da Montevarchi, ma lo testimonia il fatto che ogni volta che torni sali comunque quei gradini, o se il Montevarchi è in trasferta sei comunque parte integrante della curva nonostante tutto, perché io vedo che tutte le volte che torni è una festa anche per noi, che vediamo che Giovanni è tornato e finalmente è con noi anche solo per una domenica, e è una cosa che vedo fa felici un po' di gente. E questo è molto bello. Io penso che anche il rapporto comunque che mantieni con una certa parte di Montevarchi o con certe persone di Montevarchi, comunque nonostante la distanza e la lontananza, non sembra quantomeno scalfito. Non so se è così. Questo è vero, io tutte le volte torno, per me è come se non fosse andato via mai. Cioè, per me la curva sud è quasi una seconda casa. E lì c'ho tanti amici che vanno oltre alla partita di calcio, chiaramente, alla passione. Per noi era l'importante, credo sia ancora così, prima era vincere la nostra partita sugli spalti, poi sì, il campo è importante, però anche se si perdeva o non si vinceva, però noi si era fatto la nostra porca figura in curva, no, se era, credo ancora sia così, si era un tetto uguale, o forse di più. Mentre invece se ci dovessi raccontare una partita che hai vissuto dagli spalti e ti è rimasta in mente, o per il risultato, o per il tifo, o per un qualsiasi tipo di aneddoto che può essere capitato prima e dopo? Una delle partite chiaramente ricordo un più è la partita con Sandonà. Prima dello spareggio, prima della partita spareggio a Lugo di Romagna. Un'altra partita che ricordo, che per me la curva e la domenica lì fu impressionante, era in C1 Montevarchi Spal, che se non mi sbaglio fu la domenica era morti il Farolfi, però quella volta lì la curva era un muro di compattezza, era impressionante, c'ho ancora le foto, si può testimoniare. Se non mi sbaglio si era fatta una coreografia onde un po' mezza curva rossa e mezza curva blu, e poi chiaro i derby all'Arezzo, sia in casa che in trasferta. E anche la prima volta che è apparso il bandierone, se non mi sbaglio era contro il Ravenna, in C1, il bandierone all'inizio era solo rosso-blu e poi fu tagliato nel mezzo e ci fu messo lo stemma di Montevarchi sullo sfondo giallo. Credo ci sia ancora da qualche parte il bandierone, credo. Diciamo il Montevarchi, seguire il Montevarchi, soprattutto magari negli anni 80 e anche anni 90, portava a vivere situazioni di enorme pathos, di enorme partecipazione, e in effetti è quello che mi sembra di ricordarmi anche proprio sulla mia pelle in alcune delle partite da te citate, proprio il senso di coesione, di essere 3500 come eravamo a Lugo di Romagna, ma di sentirsi una cosa sola. E questo penso che sia un grosso pregio che questa comunità ha rispetto alla passione per i colori rosso-blu, cosa che, come dimostra la tua esperienza, diciamo, mantiene pur essendo andati a vivere un po' distanti ormai da un po' di anni. Tra l'altro io mi viene in mente una domanda che ve la fa a tutte e due, perché comunque io di derby con l'Arezzo ne ho vissuto uno solo, e l'ho vissuto in Serie D, che ritornava dopo tanto tempo, è stato episodico, diciamo, è successo una volta e via. Però siccome voi evidentemente l'avete vissuti molti di più, e siccome comunque in città si parla sempre del derby con l'Arezzo, un qualcosa di diverso anche rispetto a quelle erano le partite di campanile anche negli anni di Serie C, anche con altre squadre toscane, qual è la vera differenza, la vera sensazione che si prova da tifosi prima del derby con l'Arezzo? Perché io mi ricordo quello che ho vissuto io in Serie D, ripeto, a distanza di un sacco di anni, però rispetto ai derby con i San Giovannesi c'era una frizzantezza diversa ai bar prima della partita, nell'aria, cioè c'era una tensione che io non sapevo tradurre perché era la mia prima volta, però che oggi potrei dire era differente. La domanda è per entrambi, anche per te Fumino, cioè com'è che funziona il derby con l'Arezzo, funzionava rispetto anche agli altri derby, da un punto di vista proprio personale in relazione ai tifo e allo scontro di tifo, diciamo? Forse perché il derby con l'Arezzo andava a scontrarti contro una realtà, non ti dico superiore a Montevarchi, però come tifo magari a volte sì, a volte no, come sempre le curve hanno i suoi anni spettacolari, poi a volte cala per qualsiasi motivo, non so. Il derby all'Arezzo per me è sempre stato molto più derby con il San Giovanni, eppure il derby con San Giovanni non ho vissuto tanti, non lo so, però il derby all'Arezzo sempre c'ha il suo fascino particolare, per come la vedo io niente a che vedere con i derby di San Giovanni. Forse perché loro venivano anche da realtà superiori, di Serie B, e tutto andava a scontrare contro una curva che magari come numero era più grande di te, perché loro chiaramente è una città più grande, e poter confrontarsi con loro, tenergli testa e volendo a volte forse come tifo essere anche superiori, era una sfida, e è una sfida. Tra l'altro Fumino, purtroppo, è capoluogo di provincia resta Arezzo, quindi anche probabilmente questo, no? Ma infatti questa sarebbe stata la mia risposta, io suppongo che con l'Arezzo, perché quando negli anni 90 eravamo in C1, ad esempio, è vero c'era il derby con l'Arezzo, ma c'era il Livorno, c'era la Pistoiese, c'era la Carrarese, insomma ce n'erano tanti dei derby, alla fine non ce n'erano solo, ed erano tutti onorati perché comunque questi derby erano contro tifoserie molto più blasonate di quella che poteva essere la nostra, ma poi anche squadre fuori regione, appunto la SPAL, insomma già all'epoca era comunque una tifoseria ottima. Però con l'Arezzo vuoi la vicinanza e vuoi, però rispetto ad esempio alla San Giovannese, secondo me il fatto di essere che giochi contro il capoluogo di provincia, giochi contro quella comunità che per la politica e anche poi per natura, perché comunque è una città quattro volte circa più o meno superiore alla comunità montevarchina, e di conseguenza ti scontri contro il capo sostanzialmente, no? Contro quello che non potrai mai essere, perché pur essendo la seconda cittadina della provincia, Montevarchi non potrà mai essere probabilmente il capoluogo di provincia. Però magari può riuscire a esserlo per 90 minuti dal punto di vista di tifo, insomma. E appunto questo, i montevarchini da questo punto di vista onorano in maniera particolare il derby con l'Arezzo, proprio per dimostrare che sì, saremo più piccoli, ma non siamo secondi a nessuno. Oppure non abbiamo comunque timore di nessuno, anche se il timore riverenziale, quel rispetto comunque ci va e ci vuole, proprio per rimanere, dal mio punto di vista, equidistanti con la realtà, il sogno, e poi mettere tutto insieme in una grande insalata che si trasforma in una battaglia, fra virgolette, a colpi di cori, di coreografie, di fumogeni, quando ancora era permesso portarne, era un colore, era una cosa bellissima. Il derby con l'Arezzo più bello che io mi ricordo, ad esempio, è quello dell'89, io avevo 11 anni e me lo sono visto dal campo perché facevo il raccattapalle, ma era uno spettacolo, era bello vedere la curva di Montevarchi, la curva degli Arezzo, il tifo, i colori, le bandiere, era lì io mi sono innamorato delle curve, e a vederle da fuori, cioè ho detto cavolo, questa è una cosa bella da fare, bella da vedere, bella da partecipare, e è lì che è partita poi insomma quella che è la mia storia personale, ma questo è un altro discorso. Torniamo al nostro ospite, se no poi divento io. E quindi uno inizia a vedere le curve, a frequentare le curve fin da giovane, come è capitato a te Giovanni, poi chiaramente uno se ne innamora, la frequenta e poi te ne sei andato comunque da Montevarchi. In Spagna segui il calcio, cioè inevitabilmente la passione per il tifo, per la curva e comunque anche per il gioco te la sei portata dietro oppure è rimasta qua? No, in parte è rimasta qua perché sì, però sì, seguo il calcio e seguo le curve e sinceramente non c'è niente a che vedere con le curve italiane. Proprio in Spagna tifoserie, curve che veramente si possano chiamare curve, secondo me ce n'è veramente poche. A parte la curva dell'Atletico di Madrid, che secondo me è una delle meglio di Spagna, e squadroni come Barcellona e Real Madrid, secondo me sì, chiaro che hanno la curva, però tu puoi paragonare, che ne so, una curva come ci può avere Barcellona e Real Madrid con una curva, per parlare di grandi squadre, come ci può avere il Milan, la Roma o il Napoli, cioè proprio non c'è paragone. Io sono stato due volte a vedere Barcellona, una tra l'altro era una semifinale di Coppa dei Campioni contro il Milan. Tifo esisteva da parte dei tifosi di Barcellona. Curve che si possono chiamare curve in Spagna: Atletico di Madrid, Betis di Siviglia, Siviglia e poi squadre minori, tipo una curva secondo me che merita tutto il rispetto del mondo è la curva di Rayo Vallecano, che Valleja è semplicemente un quartiere di Madrid tra virgolette, perché è grosso come Firenze, però c'hanno uno stadio che c'entra 10.000 persone e la curva tutto il rispetto del mondo. E se no poi si passa a squadre un po' minori, una grandissima curva è il Real Oviedo, che sono in Serie B, che io la paragono, mi sembra di vedere tipo la curva dell'Atalanta, come calore e anche come ignoranza, ci siamo belli capiti. E poco più il resto, c'hanno il tifo e magari in alcuni momenti partecipa tutto lo stadio a questo tifo, però sono cori sporadici, sono cose sporadiche, curve come curve ce ne veramente poi. Ma questo, che te tu sappia, è conseguenza di una stretta repressiva del governo in un certo periodo, come può essere successo ad esempio in Inghilterra, o di leggi speciali, oppure proprio culturalmente una cosa che è sempre stata indietro rispetto a noi o agli inglesi? No, secondo me una parte fa parte della cultura, che loro vivono il calcio come si vive noi, ecco, con una passione enorme, però per esempio il 90% degli stadi in Spagna non c'è una rete, non c'è una recinzione, sono aperti, tipo gli inglesi per esempio, secondo me fa parte anche un po' di repressione. No, anche perché io ad esempio, frequentando tanto Barcellona, ho sempre visto i bar pieni, anche quelli diciamo più scrausi, quelli più popolari, non solo quelli turistici, quando gioca in Barcellona, di tifosi che fanno il tifo alla partita. In quella famosa partita di semifinale di Coppa dei Campioni, allo stadio a livello ultras non c'era tifo, però poi dopo partita in Barcellona e vinse, mi ricordo che per le Rambla era il delirio, cioè c'erano, non so quanto fosse ultras la devastazione ai vidi, però era di sicuro un vandalismo legato ai festeggiamenti, in dove poi più o meno partecipavano tutti, anche chi fondamentalmente la partita non gliene fregava nulla, magari era l'occasione per tirare una bottiglia su una vetrina, può per dire. Però ecco, mi ha sempre impressionato anche a me questo fatto. Te comunque nelle curve, oltre a osservarle, le frequenti comunque casualmente, vai alla partita ogni tanto, oppure è una cosa che segui a livello, non so, televisivo, d'attenzione personale? No, seguo a livello televisivo, oppure perché io ho la passione, allora cerco su internet filmati o così, però non frequento nessuna curva. Ma perché Almeria là non c'è una squadra che va? Almeria è in Serie B, quando io sono arrivato era in Serie A, però anche lì il tifo è abbastanza resistente. Mi piacerebbe, io ho una grandissima simpatia per l'Atletico di Madrid, perché loro vivono il calcio, soprattutto la curva, con parecchia passione. Io la paragono alla nostra, diciamo, però Madrid è lontano da Almeria, sono 600 km e poi quel lavoro foglio per me è impossibile. Cogliamo il fatto alla fine di avere con noi un ospite che viene dalla Spagna, e in questo periodo storico in Spagna ci sono stati un po' di tumulti, diciamo, fra la Catalogna e il governo centrale, ma nella tua regione dove vivi, tutto questo casino della Catalogna ve ne siete preoccupati, non ve ne siete preoccupati, la gente ne parlava, non ne parlava, perché anche a Montevarchi, ad esempio, quando succede un qualcosa che un po' bolle nella pentola, comunque la gente ne parla anche se non lo riguarda direttamente. A San José d'Almeria i San Coseini sono come i Montevarchini, che già finisce per ini e quindi si fa la rima. Sì, la vivono, però fino a un certo punto. Chiaramente l'andaluso è contrario all'indipendenza della Catalogna, ma anche in Catalogna, perché in Catalogna c'è 6 milioni di persone, alla fine hanno votato 2 milioni, non è vero che tutti vogliono l'indipendenza, una parte vuole l'indipendenza, nel resto di Spagna, per quello che si vede e quello che si sente, il 90% sono contrari. Quando veniamo fuori, diciamo, tutto questo casino è apparso, se tu vai a Almeria ora, da quando è venuto fuori il discorso della Catalogna con l'indipendenza, su 10 case 9 fuori ci hanno attaccato la bandiera della Spagna. Proprio a significare noi ci troviamo bene a essere spagnoli e non ci interessa, quindi bene, prendono posizione un po' come i Montevarchini quando si parla di cose di questo tipo, riescono a comunque interessarsi e a prendere le loro posizioni. Anzi, magari di riflesso avrà anche rafforzato un po' di patriottismo, una roba del genere. E un'altra domanda di rito che ti tocca anche a te, Giovanni: pesca nel sacchetto dei tuoi ricordi il gol che più ti ha emozionato, il gol più bello, per qualsiasi motivo, insomma, che ti ha emozionato di più? Credo, ora ricordi, sì, ai volo sicuramente il gol di 3-2 di Montevarchi San Donà, che si fece l'invasione di campo e la partita non era neanche finita. Io ero tra quelli che fece l'invasione di campo, chiaramente. Un po' tutti. Che mi ricordo c'era il presidente Losi a cacciarci fuori a pedate perché aveva paura ci squalificassero il campo e ci dessero partita persa. Che sarebbe stato incredibile, tra l'altro, raggiunti 3-2, dopo se stai sotto 2-0 ti dessero partita persa per l'invasione, sarebbe stata una roba pazzesca. In realtà io ti faccio un'ultima domanda in conclusione. Pensando di ritornare la prossima volta, metti tra un anno, 2 anni, non prossimamente, come vorresti trovare la squadra, o meglio, come ti immagineresti di andare a vedere in Montevarchi nella migliore delle ipotesi? Ha un sogno al riguardo, non lo so, qualcosa di genere. Ma è che ti dico, senza dubbio ritrovare Montevarchi in Serie C e magari rifare il derby all'Arezzo. Ecco, ad esempio, se giocasse una finale per andare in Serie C, una finale playoff, per esempio, te che fai? Torni per quella? Cioè, ovviamente lavoro permettendo, proveresti a farlo? Sicuramente. Se volevo tornare a casa per il derby di San Giovanni, figuriamoci. Ah, volevi tornare anche per il derby? Peccato, tu ce l'hai fatta, perché insomma quest'anno le andava anche bene rispetto a quelli ultimi. E allora, con i sogni di Giovanni, augurandoci che questi sogni vengano realizzati, vale a dire di tornare in Serie C e di tornare a giocare un derby anche con l'Arezzo, e dal mio punto di vista di rivedere Giovanni allo stadio per quell'occasione, io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Big World, li ringrazio per averci ascoltato fino a qua, ringrazio il nostro regista di stasera che, ahimè, tornerà in Spagna tosto con il nostro Giovanni, Pedro Almodovar. Ringrazio il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Grazie a tutti, buonanotte, con una promessa, salutando anche Giovanni: se per davvero tu dovessi tornare, siamo un finale di playoff, faremo una bevuta, una birra di rimembranza per questo momento, perché evidentemente ha portato bene. Quindi grazie Giovanni, speriamo porti bene, speriamo di rivedersi anche in quella circostanza, ma sicuramente prima. Va bene, grazie a voi per avermi invitato e un saluto a tutti. Mi sono scordato la domanda che volevo fare. Aspetta, mi riallaccio io. Fagliela. Sì, cazzo. Nani e ballerine, trovo un Nani e ballerine, il circo. I San... come si chiamano gli abitanti? San Coseiani?